chi è? E chi è? Cale. Oh, ragazzi, sì, buonasera. Buonasera anche a lui. Ma se ne è caldo, visto? No, ha dato di rappogare tutto il venticello. Mamma mia, che cazzo di cazzo. Qua c'era da morire, cazzo. Caldo c'è, ancora una settimana per caldo. Da voi trovate più caldo ancora. Di che cosa voi non si sa, se è caldo o se è caldo. Certo, ragazzi, si stressi un po'. Ma mi pare che la questione sia, sta arrivando il caldo proprio. Certo. E davvero un bombetto. È arrivato, se lo dovremmo tenere come te. Io dico che se la doccia va, tutto attacca io. Allora ci ho fatto la doccia, mi sono uscita va. Allora sto con frecco. Ehi, capitano Manzano, ma mi sentivo pronto attacca, allora mi sono tutto fresco, cazzo. E me la giù stava sto con pipetta. Meglio così. Caldo c'era. Io ci vado parecchio. Cazzo, stamattina, sono stato alle 16, c'era un cazzo buio. Stavo a stare in tanta roba da buttare a casa. Cazzo, era sudata, cazzo. Altro di un'unione. Ma c'è la giacca, la abbiamo piano, per cui... vai, sto tranquillo, vai, sto fresco e tranquillo, vai. Fatto bene. Cazzo, mezzo di ferro, cazzo. Ti muovi e ti cazzo. Ti paro un cazzo, ora. Non ti fai muovere. Non ti muovi più su di me. Io ti faccio, allora. La faccia è tenita, ora. Già passa, già abbiamo la pasta, per cui... Ogni se ne passa una. Ecco, ma e tu che sei combinato? Sono andato a lavarmi la macchina. Invece di facevo il buon spiccio, l'ho fatto con la carta, si è appoggiata, me ne sono parati 20 gettoni. Che mi sono parati? Sì, ci ho pagato 20 euro. Si conservi allora. Alla prossima, se aggiudi la palla la porto la palla con l'automatico. Cazzo. Migliore. Ma con lo sta a ribaffare l'asciutta. Cazzo. Ti l'asciutta pure, mi si è. Per forza. Con il coso, con le due turbine che fa. Date che lui ti l'asciutta. Prima, molti anni fa la lavavo con questa attrezzo, ma vada, non la chiama più da padre, già secondo gli anni che non lavo la macchina, questa macchina è. Ma me la lavavo più in campagna, in campagna faccio tutto, e per cui... io non mi so com'è andato, Io devo andare a fare forza. Non mangio così, no, da pulire la lavalla. Devo andare lì per forza. Ma che se mangia pane, no, che mi va a tenere la muta. Invece in ghidda c'è tutto quanto. E me lo dovuto anche asciugare. Allora è già tutta la cosa, va. Io quando scendo, cioè su di fatto, che sono scappo, c'ho tutto, e per cui è da voi che ho la pelle, e vai, così che mi lasciugo e va benissimo, ecco perché, ma qua ho visto qualcuno che la lava, che la poppa in questo rubinetto, e qualcuno si lavava, non la può lavare, però mi interessa a me. Allora, come se ne faceva andare a fare, arrivi nei vigili, se ne faceva una grossa telefono, una grossa multa di fare. Certo, io non l'ho mai lavato, ma non la fa mai. Ma no, che prima ci aveva un rubinetto, e allora tutti si attaccava al rubinetto mio, non mi vergognavo. Allora ci metto così, così, caraggio, e così che... ma che non li lavavo, non li lavavo, ma qualche volta così, a rifreddo magari che si era carraggio, capito? Un pezzo di bomba, ma sono rifreddi però, E così non hai fatto pagare le matte? E allora, cazzo, tutti si attaccavano a me, certo. Allora la giocavano, ma fine un altro, rubinetto, si preso a me. E da non fai più, e allora lo che dice di staccare, però la bomba aveva ancora e un rubinetto, per cui io so come fanno a toccare la cosa degli altri, gatta. Io non l'ho mai toccato. L'ultima andata che volta ha riempito la bottiglia, stacco il rubinetto e mi pulivo il vetro. Ma tutti alla bamba la macchina come cazzo di fatti di vicino, mai. E la banca le fate di questo rubinetto? Come? E la banca le fate di questo rubinetto? Tu mandano di chissà casa. Certo. Non se ne approfittano a pigliarsi lei per lavarsi la macchina. Infatti, no, io ho evitato di sopra. Il proprio piazzario, capito? Ha clamato in molto e tocca da lì al signore, il primo va a passare giù a coso, si tirava a un zavacchino. Scusa la sinistra, capito? E lo siamo in va. E non si chiede, se mai, no. Ogni tanto bene, però non per la nessuno. Più bella andà. Che cos'è? Andà più bene, gli si paga, lei va a consumare i ratri. Ma cazzo, ma è una cosa incredibile, cazzo. Allora, per una famiglia che, cazzo, che... cazzo, c'è il terreno. Cazzo, fino a lei va a entrare. E invece se piglia la bomba della mamma, cazzo, piglia la bomba dell'altra, capito? Cazzo, la faccia di Candau, cazzo. L'aveva detto cosa io, l'aveva detto. Tu che le fa delle cose mie, non la puoi toccare, chissà. Ma la rabbia, fate i cazzi d'oggi. Niente, mi dici, c'è stato che si riuscì a farmi farci bene. Ma non mi interessa, capito? Non mi interessa fare quello che voglio, qualcuno va là. Ma poi la sera va la bisa e tu, chi lascia, chi vuole, chi piglia, chi mette di bocca, chi la prende la macchina. Ma chi sono sì? Chi sono sì che facciano così? Però che faccia tutta, cazzo. Ma la mamma tira la bocca, va, e leva, cazzo. Attacca per la bomba di mamma Gioia, che era proprio da un problema a sé, invece non la bomba. Se no mi consuma troppo, no, la mamma. Penso che stato roba mia, non l'abbiamo toccato, e ho visto che la macchina sta arrivando la patta in una fagista, sta per buttare, non la palla in. E infatti così, sì, vabbè. Tanto probabilmente. Quando la ciappa nel budino, stava a pigliare con il tiburu. Ah, fatto certo, poi sta a toccare il tiburu, non mi sembra, può farlo che me, non mi mettono che me, e si cazzo con tranquillo, sta poi il lato non mi interessa. Questi che si arrabbiano. Appunto, ma chi sono? È così. No. Chissà, se non passa. Ma c'è caduto. E io non abbiamo dovuto lavare la cosa, a fare una cosa del genere. Cazzo. sto dicendo, vabbè, la volta può capitare, sulla impulsata e si può riprendere, ma alla parte la macchina, no? Non mi sembra giusto, che la roba giuria. Infatti è così, ma la roba giuria non è nemmeno durata toccarne. Ecco cosa è. Se ne approfittando della cosa dell'altro. Esattamente, ripeto, cazzo lo fai, lo vedo e lo faccio, lo faccio. Sarraggia è proprio di questo, se no io posso ripartire, sarraggia. Stava a finire la palazza a fare, e sarraggia è, non si basta. Infatti, la ringrazio a fare, vero di zio, a tanta dura che tocca le manutra. E io non abbia fatto il rubato, non abbia fatto un rubinetto. Ma non è capitato, però a che dia ragione da ragione già viene di qualche non lo cavi il suo rubinetto e lo zacchi a chi si attacca tutta il suo rubinetto non sa chi dirà niente di leva. E infatti la vedete se muovi ma esempio ma corusa no beh domenica c'è il no che non vede nessuno chi si attacca non vede nessuno ancora anche sarà un mese che è morta capito dalla mamma è vera giura. E di casi di abbellieri casi. Però ogni tanto si avvene, ma caso bene non si fa di più. Ah, che se lo vanno a sapere, lei per fare, che è bionda. Per le abbigliani, No, no, è padrone, è padrone. L'ha comprata prima di me, sto. Chi se l'ha comprata prima di me? Beh, se è padrone allora no. Solo che ha lasciato la viuda, è un peccato. Perfetto, c'è la roba, va. Non so questa mia. Infatti, mi sarà nei buoni, il buono, non so. Caffetta, tra quattro di buoni, mi pare, che... la cura va a entrare oppure se la prendi non lo so chi ci vuole non va vabbè e così sono meglio riesci si arrangeranno vuol dire un attimo 8 mila 7 5 minuti ma sono qua eccoci qua sta e già in già purtroppo è così certo. Ah, giracco si è pensato il padrone. Infatti, quando vuoi un padrone, un giracco, mi vorrà tutto. Come ci sta bene, piano piano, aspetta fissi. L'importante è che non entrate dentro in casa Giulia. No, non credo che possa arrivare a qualche genere. Beh, non gliela tocca, che se... ma no, a fare una cosa del genere, no. Già, finale di casa, niente, capito? È stato di chiudere fuori, capito? Ma io non mai lo so bisogno che sto pagando un montone di eva che farà a casa. Vabbè, fate magari un tanto, no? Che fate lì non già visto. Poi che tanto lo fate, va. Un paio di secchia va, un paio di secchia da voi. Se non bene mi deva. Contatore gli dà, Mi sta raggio, troppo. E facciate a toccare un mio. E poi parlate. E cazzo la fuga. Il fatto che... quando mai non si abita... questi gatti non ci potrà attendere. È tutto serrato. Adesso consumando di Eva. La bulletta è un beata. La galarrivi. Siamo abbisati. Non vedi chiuso. E prende il baga un vedeva. Ecco, un giochi. Fino a Palabisà. Chi ci vuoi? Come dovete attaccare un rubinetto da fuori? È per un po' quello la Palabisà. Ma con te tu hai, con te tutti, o no? Infatti. Infatti è così. Quando mai che stanno sin abbisà? Io penso che ci sia arrivata la bolletta. Perfetto, sì. Beh, infatti io, ma per dire no, oh, ma andate a partire lo mattetti, ma si pare che si andrà a casa di a fare il suo lavoro, ma in casa di non lo puoi fare, se ne pare, non cazzo, no, che non si accontentire, ho capito? Ecco, insomma, leva del latte, consuma. No, vi ha fatto una fotografia, vi ha buttato su Facebook, fuori in direva. Che mi ha scritto che è casa? A vedere se riesci tu, che gira in rete, che riesci tu, a vedere. A tutti così, mi sto, latte di fa. Tata la parabizza e domattina. Infatti, ma se non la parabizza, prima o poi ci arriva le mani. No, io non penso nel genere, magari, non è perché era abbastanza caldo, tranquillo, però non penso che fosse a Biazzini. Infatti, non mi fosse a Biazzini, ne so pure in leva. Certo. Ma chi non lo controlla? Una cosa brutta è certo, che deve andare a pigliare leva di latri. Ma tutti mi sento piatti la palabrisa prima pure, per cui sta arrabbiare, sta seguita, se si vuole che andrà a fare bene al mare, questo mi dico. Ah, perché così ne so. Ah, io so sì. Vabbè. 51 mila. Sono le mani la cosa. La Spagna, Inghilterra. No, sto già visto, però. Era lì, in un compleanno, che era Marino, a Rinozzi. Però un staccante di gioventù. Per cui, per il garzone, sarà mai dato il garzone, partita non l'avevo visto. Sta la fissa, non so, chi ha vinto? La Spagna, la più forte. Forti è, forti. Quanti ne hanno arrivato? 2-1 hanno vinto. 2-1. Certo. È bravo, so. La Spagna è brava, ragazzi, dai. Però, cosa mi fa? Vuol dire che è toccata a Eddie. È già la seconda volta che l'Inghilterra farà il finale. Ma non passa. Prima con l'Italia e poi con la Spagna. Non c'è per le cose andare bene, capito? Per cui hai visto l'Italia la racconta buona subito. Hai così ha fatto la Spagna, ha fatto. Vinca il migliore, vai tu. Infatti, vinca il migliore. La più forte è la Spagna, quindi manca paragone con l'Inghilterra. Infatti, la verità, cosa, a me ne era, ma sì che c'è la partita, lì c'è la gioventù, non li può vedere, non rivede il cantone, allora si fa vedere il cantone, la musica, capito? Così che partita non avevamo visto nulla, noi già avevamo già morto, lo fine più, per una trentina di persone mirare. Sì, vai a vedere allora, voi hai fatto questo, se non è vinto. Ma ci faccio tanto per chi fa il dalla base, chi fa il dall'altro, per un caso se si comprendeva più niente, così che è meglio che non l'ha già visto là, così che ho versato solo la maglia e a mia basta. Adesso sì, ci sono sempre io, così che si va. Allora, la cosa più importante è che poi la partita, ci vuole stare l'Italia magari, per abbiamo da vederla, però quando non si vuole si può. Certo, infatti, quando è così non si può. Ma, siamo alla moto un karaoke, certo, per cui ai tagliarini si va per lui. Mi pare a mezzanotte, no? A mezzanotte si può rientrare. Poi gli hanno stato in tanti di bar con un karaoke. Era un po' di gioventù, capito? Oh, però la gente manda a buono. Infatti. Due giovani travolti ieri dalle acque così. Del non si può. Tocca rimanere così. lasciala portarsi senza parlare. Mesh e Stefan, i commostatori dei vigili del fuoco hanno impiegato ore. C'è stata la televisione, si sente. Oh, ad abbassami. Ad abbassami, adesso si sente. Si sente quando parli tutti. Però non disturba, no. Non disturba assolutamente, lascia la visione. Sì, vabbè. No, no, no, lo tengo a bassa, la tengo e così. Che sono un mezzogiorno. Perché ce l'ha criticato, quello come ho fatto l'altro giorno, che sentiva più la crisi che a me. Perché io sono vicino vicino, capito? A 70 centimetri la TV e lo sentivo. Invece adesso ho messo il microfono normale per cui non arriva, capito? Sì, vabbè. Non è che sia molto alta e no. Si sente quasi nulla. Non disturba, dai. Già ti sento già benissimo pure, per cui. No, per dirti che sentivo anche la televisione. Io ho delle giornali, c'era proprio Benedetto Trump, tranne Cadara Reci da peccato, ma mi pare tutto un complotto a me. A Trump, Cattarista l'hai parato. Ma alla Reci l'ha toccato però. Come ha sparato l'ha pescato l'orecchio. Però a me mi pare che sia tutto un complotto, mi pare che sia fatto i appunti. Chi sia uscito? Le gumbiare tutti le maniere. Cazzo. Vai a cercare tutto. Ma che arrivi a una cosa del genere. Non è giusto, cazzo, però cazzo, ma perché tu che le altre facce, che bisogna mettere chi si dico, cazzo, è diplomato buonasera all'università, l'ha visto, cazzo, però faccio bella fine, ecco. L'anno è molto, l'anno è molto, però è molto un coso, un pompiere in congedo. Ecco, cazzo, purtroppo. Cazzo, ma la gente, cazzo, a me c'è da cazzo, e c'è tutti i sapenti così. C'è, vuole entrare. Buona tarde, mio hermano, do più rum da questa parte, ciao. A te. Ma Gianmarì, e te Giulia, Gianni, buonasera. Buonasera a todos. E allora, che argomento state trattando stasera? Di omicidi? Di Trump, che si è appigliato un quel pararecci. Un proiettile le ha sparato l'orecchio. Già ho sentito, quello è stato miracolato. C'ha ragione lui che ha detto che è miracolato da Dio. E lo credo io. Se lo prendeva bene, lo prendeva al cervello. Meno male che l'ha preso all'orecchio. Ma magari di striscio, non lo so. Ma a me mi pare che è tutto un complotto, avrà di preparare a Reci, avrebbe diverso, così acquistò punti dopo. Sì, e Guido riusciva a mirarla all'orecchio, e si è sbagliato, non è così, no. Io penso invece un'altra cosa, che vogliono far credere che magari è qualche russo che ha sparato e coso, ma per attivare la guerra. Gianni si candy boghi di Gosi. Non so quel ragazzo se era russo che cosa era, questo non lo so, però so che è un ragazzo di 20 anni. Io un ragazzo di 20 anni. Davanti Giovanni. Buonasera già. Ma devo dire che non penso che sia un complotto, non lo so, però le gubbina di Giovanni la guardate anche se era antipatico e ha voluto fare chi tu che ha fatto, però ha fatto di riferimento, no Trump. No, era roba di partito, hanno detto, non lo so se è pure così, che erano di partiti diversi e non lo accettava quel ragazzo, capito? Questo, il fatto che lui fosse di un altro partito. E vabbè, ma arrivare a quel punto, ma andare a ammazzare un cristiano, cazzo, io, cazzo, non ho coraggio, però, niente, si lascia per ogni maniera già. Ci sono i bravi, ci sono i mali, e la ragione, oh via, per carità. E oggi ci stiamo andando e peggio siamo divertenti. E perché in strada? Secondo chi trovi, uno non ti dà la presenza, gli dici cosa, si ricava la pistola e ti para. Secondo Cacciapi, devi stare attento anche a quello, capito? Magari con le mani ce la fai, ma se magari si ricava un'arma, ti butti. Aspetta, giuro. So, cosa bisogna fare? Scusa, purtroppo il traietto è tutta esaltata, va. È tutta esaltata, non si compra il biglietto, mi sta attenta la gente quando fa succedere. Grazie. Ah, sì. Tu un piccolo palo di battigliere e battigliere che aveva visto che fa se la massa. Boh. E non hai sentito quello che era successo lì pochi tempo fa, che l'ha sparato alla gamba quello lì. A voi fa torto marcia, quello le ha detto cosa, se ne farà dalla macchina, il biglietto se ne farà dall'altra. Vabbè, vai da qui, oh, cosa bisogna fare la chiesa? La fare pensato di Borizzotti, adesso, sarebbe levato subito subito, non era pittura. È in carcere, ma anche per prendere da un vedo poco. Allora, qua la legge è poco severa. Hanno fatto vedere questo italiano che è andato in Spagna al mare, e in Spagna ci sono delle regole ben precise, ci sono praticamente delle delimitazioni che tu non puoi praticamente mettere l'ombrellone al mare oltre quella delimitazione. Beh, fatto sta che questi qua sono arrivati, hanno messo l'ombrellone davanti a loro, questo ha chiamato la polizia, non si voleva spostare, l'hanno preso e l'hanno arrestato. Peggio Maedo, che si è fatto arrestare. Ha fatto prepotenza, era un turista, no? Ha fatto prepotenza e l'ha ribigliato, l'ha ribizzicato, l'ha ributtato, le manette si l'ha ributtato, in spiaggia l'ha fatto a tutti. Ma io che non leggi questi no, quindi ma già. Io che pare la legge fa fora due delinquenti fa fora la legge, via. Noi l'altro giorno sono andato al Alghero, no, ci avevamo lo spazio, abbiamo preso due ombrelloni apposta per stare larghi e avere lo spazio, eravamo in tre. E praticamente ci siamo delimitati in questo spazio. Beh, non so, sono arrivati dei turisti tedeschi, sono venuti attaccati, poi con l'asciugamano attaccato al mio, le rubati, ma cioè vai a entrare sotto l'ombrellone a farmi ombra giù, non ho capito, uno dietro, una famiglia dietro e una davanti. No, guarda, c'era uno spazio dall'altra parte e loro si sono messi attaccati a noi. Uno deve avere un po' di ritegno anche, no? Io non dico di non stare vicini perché lo spazio è quello, però cazzo, attaccati, proprio attaccati, se non potevo muovere io. Proprio cazzo. Ma secondo le persone anche, boh. Ma non tutti sono così a fare una cosa del genere. Cazzo, me lo penso perché se non mi serve la cadrugo, ma se il posto c'era, perché non si è spostato? Allora, il posto c'era perché ti dico una cosa, c'era quello che vende cocco, bibite, con quel carrettino, poi si è spostato e ha lasciato lo spazio che aveva lui, l'ha lasciato, quindi c'era. Forse magari l'hanno fatto perché ancora c'era lui e magari non si sono spostati per quello. No, lui c'era, se non era già andato, se ne stava già andando. E comunque l'educazione è sempre poca qua e non la fa rispettare nessuno. Invece là in Spagna, se non sei educato, ti bida e ti bruciano i drenghi. Anche in Germania è così, anche in Germania sono educati alle cose di spiaggia, solo che sono loro che non sono educati. Tutti colori e sorvolano, capito? Perché le leggi se le fanno per loro. Siete sovramodulati. Contore, no. Ecco, le leggi si rifanno per loro, ecco perché. Per ogni nazione c'ha le sue leggi, solo che noi non siamo severi come leggi, siamo troppo permissivi. È per quello che fanno tutto quello che voglio dire. orientale. Cazzo, hai visto? Il monumento, il frantumento è il monumento, cazzo. Ma è a prima che non mi fate niente, buio. E l'acqua della fontana di Trevi, hanno colorato, ne avete un po' di cose. Questi ambientalisti, da che ambientalisti sono, sì, che fate l'inquinamento da tutti i basi. Chi si a me Marizio d'accordo è. Vabbè, dottore, riprendi. Già, io te l'abbia fatto fuggire con l'asciugamano, pieno di sabbia. Un po' di sabbia va, un po' di sabbia da voi, a me se si era allontanato. Ma boh, bevendo birra, tutto il mattino bevendo birra. Era un tedesco pure, è ammazzioso la birra, e non molla, chi non si vede frasi con proprio della birra, non la molla. E ma abbiamo fatto da Maria, come sai, abbiamo fatto birra e sabbia, a vedere se se n'era andato da Anchivi. Era una famiglia intera con due figli, marito, moglie, due figli, e gli altri, non so se erano 4 o 5 quelli che c'erano dietro, erano insieme, solo che non c'era il posto per stare vicini, quindi uno è stato detto da davanti, ma intanto per dire hanno la faccia tosta, vengono qua a villeggiare e si vogliono comandare, poi chi subì lui. Se piace a fare da me, fa tranquillo che si erano allontanati, però penso che si erano allontanati, anche da asciugavano pieno di sabbia, prima o poi ti deve andare. Io sono stato, c'è molta gente su casa, e come pure, e ci tengono, però ci sono sempre anche lì, per persone proprio maleducate, capito? E ho sentito ora sopra modulati, non so se è con Dori o con chi, perché non si capiva nulla, sentivo... No, ma ho visto facile, sai. Vuol dire se ci sa, te lo dico. Lasciate uno spazio tra un passaggio e l'altro, così non sbagliate. Intanto io sto chiedendo là che devo fare cosa qua. Vabbè, buon primo là, già ci sentiamo alle prossime. Mi prendi, so, io chiudo. Ciao a tutti e due. Ciao Giammari, stammi bene, ciao. Ciao Giammari, alle prossime, ok, ciao. Avanti tu. Aspetta un attimo Gianni. Già, purtroppo. Beh, ne vedi l'incidente con un camion. Ma in primo piano anche. Per dire, un camion disastrato. Era macchina dove fa tappeti. E dove? Sulla 131. Telegiornale da me. Ah, ma hai fatto vedere, un camion giallo, un trattore giallo e c'è con un frigorifero, c'è un rimorchio con un frigorifero. Adesso d'estate poi ci sono turisti che non conoscono le segnaletiche, è un casino, cazzo, cammina. E tu ormai andate vicino. Oh, con l'orecchio tappato non posso farmi neanche il bagno, cosa ando a fare? Vai bambino. Non è ancora risolto questo problema. Lunedì prossimo, cioè, lunedì prossimo c'è la visita. E speriamo bene, dai, magari c'è la cellula, se già te ne esce, quello lì te lo tolgo. Sicuramente il tappo di cerumo me lo controllano. Ma chissà, speriamo che sia così. Solo che anche il diabete porta queste cose, la sordità, cecità, sordità, tutte queste cose qua le porta il diabete, però spero che non sia quello. Mi si è tappato tutto in una volta, mi si è tappato, lo sento perché... E magari interno e tu non riesci a trovarlo, capite? Magari è molto interno, loro gli spruzzano l'acqua calda. Cos'è già? Ho detto che magari è molto interno e tu non ci riesci, loro gli spruzzano l'acqua calda dentro. Sì, infatti è così, no ma ho sentito che hanno una bella apparecchiatura per aspirarlo anche. Speriamo che non lo tolgano. E dai Gianni Giubi, non è così critica la situazione, dai. Ah, si sente che c'è il tappo, perché io ci sento, ma lo sento, le cose, io il rumore lo sento. E c'è il fastidio, là, c'è il fastidio dove si sente. No, le 8 meno un quarto sono le fastidie di pipigliare. Figlia, va, pagisci subito, mi rabbiglio. ci sentiamo già alle prossime, ok, ciao già, stammi bene e grazie della chiacchierata. Ciao altrettanto, ciao ciao. Ciao.